Porta Venezia, porta Romana, una città che è piena di vita. Turisti da tutto il mondo, venuti per vedere il Duomo. Le antichità, i musei e moda, la cultura, la musica che bella. Benvenuti a San Siro, il grande castello, la vita di Sant'Ambrogio. I like it, mi piace, a tutti benvenuti. La bella vita, Milano mia, se mi piace lì c'è anche te. Se mi piace lì c'è anche te. Se mi piace lì c'è anche te. La ragione fa come ti pari, un luogo per buona affari. C'è pasta risotto, panettone, cotoletta tutto per Natale. A Milano divertimenti, ogni tanto le storie delle santi. Siamo tutti campioni, e la Paco Sempione, andiamo laggiù insieme. I like it, mi piace, a tutti benvenuti. La bella vita, Milano mia, se mi piace lì c'è. She's a CD on top, top. You can take some photos, make some memories for tomorrow. Right. But come with your portfolio, there's too much you wanna borrow. The life is flashy, classy, ladies sexy, everything's flashy. Any and Bacardi, my way, that's how we party. Yeah. La Milano, divertimenti. Io canto, ballare se mi senti. Non importa chi sei, per te e per tutti, venite a divertirvi. No.